resta con me solo una sera, lo spazio caldo di una candela, resta con me un'ora sola, solo una danza tra le lenzuola, stai con me finché la luna torna giù, stai con me finché non hai deciso, spetta a noi intrappolare il tempo, filtrarlo goccia a goccia, raschiare la sua roccia, avvicinarlo piano, farci prendere più lontano, e se chiudi gli occhi vedi un altro cielo, e se tu mi tocchi si confonde l'arcobaleno. Resta con me solo un minuto, l'incerto istante di uno starnuto. Resta con me almeno un'onda, finché il silenzio non ci risponda, stai con me per ogni notte che verrà, stai con me chiuso nel mio respiro, stringimi più forte di una morsa, finché mi manca il fiato, finché sarò sfinito in questo ballo lento, ruota con me nell'infinito, che se riapro solo, senza più domani, a ripetermi dove sono, resta per sempre, occhi di autunno. Oh.